sue scelte di fondo. Quindi riteniamo che l'importanza della... tant'è vero appunto che alcuni anni fa, 3 anni fa, noi organizzammo un convegno intitolato La città seduta, nel senso appunto di sottolineare il fatto che a Bologna si faceva dell'amministrazione ma non si sceglieva. Oggi le scelte ci pare che siano sostanzialmente, per quanto riguarda le linee generali, fatte, e questo sia molto significativo anche rispetto a una posizione che il Partito Comunista esprime a livello nazionale. Quindi è da questo punto di vista che vogliamo affrontare questa questione. Nel periodo c'è un altro aspetto ancora che ci fa dire che questa questione sia molto importante. È il fatto che nel periodo degli anni 70 le giunte rosse venivano viste come giunte, come un simbolo, un modello di amministrazione, sia per quanto riguarda il modo con cui si faceva amministrazione, sia per sul discorso delle mani pulite. Questo veniva presentato come un modello da presentare, da far pesare nelle trattative a livello nazionale per l'entrata del Partito Comunista nell'area di governo. Io credo che le scelte che oggi vengono fatte pesano anche da questo punto di vista. Ancora una volta Bologna torna a essere al centro dell'attenzione, dell'iniziativa del Partito Comunista, perché si vuole presentare Bologna come momento di sperimentazione di una linea politica nazionale. E ancora, questo tipo di sperimentazione politica dà il senso, dà un significato, ci spiega che cosa avviene, quale tipo di posizione in realtà venga espressa dal Partito Comunista anche a livello nazionale, della svolta che è stata fatta dal nuovo cosiddetto Partito Comunista, per ora Partito Comunista, poi adesso sappiamo tutti che è in discussione il cambiamento del nome. Ecco, io credo che ci sia un collegamento molto consistente appunto nel fatto che fra queste questioni, nel fatto appunto che la scelta che viene fatta è una scelta che mette al centro un progetto di privatizzazione. Un progetto di privatizzazione che non va visto in termini puramente ideologici e nemmeno in termini puramente di dare, solo ed esclusivamente di dare alcuni vantaggi ad alcune società, ma va visto come scelta di campo di fondo, inteso in senso generale. Poi negli interventi successivi le questioni verranno ovviamente approfondite e viste nei loro particolari, e c'è una scelta di campo in cui sostanzialmente si dice noi vogliamo non più mettere in discussione certe scelte che vengono fatte per quanto riguarda il contesto attuale, il contesto capitalistico, il contesto di scelte capitalistiche attuale. Noi vogliamo essere all'interno di questo e giocare la carta di una gestione di questo tipo di società. Non più in termini di modifica, magari in senso riformista come veniva fatto negli anni 70, quindi con una riformista nel senso di una redistribuzione del reddito, ma mettendo al centro appunto scelte di privatizzazione. E in questo senso noi vediamo un processo di omologazione ulteriore, un salto nel senso dell'omologazione da parte del Partito Comunista nel quanto riguarda l'amministrazione comunale di Bologna, di omologazione rispetto alle scelte di carattere generale. Riteniamo che da questo punto di vista sia diciamo anche che finalmente viene fatta questa scelta, cioè diciamo che è utile in termini di chiarimento che venga fatta questa scelta, che si dia una smossa rispetto alla situazione. È utile non in senso positivo, è utile nel senso del chiarimento rispetto a quella che è la situazione attuale. Perché questo tipo di scelte non riteniamo che siano un salto radicale rispetto a una situazione precedente, si è trattato di portare alle estreme conseguenze delle scelte che man mano sono state fatte nella fase precedente. E però questa scelta è di carattere sostanziale, una scelta di carattere che abbandona anche un'ipotesi di tipo riformista come lo si intendeva anni fa, e mette al centro invece delle altre cose, mette al centro un processo di privatizzazione, di finalizzazione in senso privatistico di quelle che sono scelte poi sostanzialmente pubbliche. Ecco, riteniamo da questo punto di vista significativo questo tipo di scelta, appunto, che il Partito Comunista nella versione dell'amministrazione comunale fa. Riteniamo significativo perché riteniamo che questo dia il senso alla svolta che viene fatta che è stata fatta da parte del Partito Comunista in senso liberal-democratico, come viene definita, dia un senso che è da una parte mette sì in evidenza alcuni aspetti riguardanti i diritti dei cittadini. Dall'altra però questo discorso dei diritti viene coniugato dal discorso appunto di una scelta fino in fondo di campo, nel senso di accettare il modello di società capitalistica. Da questo punto di vista crediamo che sia anche, andando un po' fuori tema rispetto alla serata, vada vista anche le posizioni che vengono prese, il modo con cui viene un po' interpretato ciò che avviene nei paesi dell'Est, e cioè sostanzialmente tutto va a ovest, no? E quindi anche Bologna può andare a ovest, può accettare questo tipo di situazione, di omologazione. Si vede sostanzialmente dei processi che avvengono nei paesi dell'est, questo tipo di strada, senza contraddizione, mentre invece crediamo che ci siano molte contraddizioni, molte differenziazioni che vadano fatte, un processo che però è sostanzialmente positivo. E però appunto si interpreta questa cosa a fini di carattere generale che dicevo prima. Io credo comunque che sostanzialmente questo tipo di scelta, a questo punto di vista abbiamo cambiato il titolo appunto dell'iniziativa, 3 anni fa la facemmo sulla città seduta, sottolineando la mancanza di iniziativa, questa volta la facciamo sulla città svenduta, appunto svenduta ai privati, un'amministrazione comunale che decide di favorire quelle che sono attività di tipo privato rispetto a quelle che sono, privilegiando queste rispetto a quelle che sono la funzione che dovrebbe essere prevalente di fornitura dei servizi, e però questo rende abbastanza chiara la situazione anche all'interno della stessa sinistra. Da questo punto di vista noi riteniamo di concludo, perché funzione è soprattutto quella di introdurre in termini un po' generali la questione, riteniamo che come DP di svolgere un ruolo rispetto a questo di opposizione, rispetto a questo tipo di scelta, di opposizione che non è solamente di sottolineare il fatto che vadano garantiti un po' più di servizi rispetto a un po' di meno, o vada sottolineato il fatto che, che deve essere fatto qualche appalto in più o in meno, non è questo il punto. Il punto è mettere in evidenza, e anche quello ovviamente di fare delle scelte più articolate, articolare anche delle scelte, fare delle iniziative rispetto a questioni molto specifiche e molto concrete, e però mettere in evidenza il fatto che oggi è possibile in questa società fare una scelta che invece mette in discussione gli assetti di fondo di questa società capitalistica, che li mette in discussione nei loro termini generali, dica che è possibile mettere in discussione i loro termini generali, e dica che è possibile non solamente in senso astratto, non solamente sostenendolo e dicendolo a parole, ma anche mettendo in piedi delle iniziative, delle lotte, delle forme di pressione che puntino ad affrontare anche i singoli aspetti in questa direzione. Allora noi crediamo da questo punto di vista che da questo punto di vista che deve costituirsi un'area, deve aggregarsi il più possibile un'area che ha questo tipo di obiettivo. E quindi da questo punto di vista dicevo che è positivo la chiarimenti che avvengono da questo punto di vista nell'ambito della sinistra, nel senso che riteniamo che possa essere più chiaro, che possa avere un certo tipo di funzione il fatto di aggregare un'area che abbia questo tipo di obiettivo. Pensare che questo non è il migliore dei mondi possibili e che anche Bologna può essere governata in una logica diversa. Ecco, io concludo dicendo che su questo... Questa iniziativa vogliamo farla in termini di dibattito, a cui poi apriremo anche la discussione anche ad altri interventi. Su questo noi nel corso del mese di gennaio organizzeremo un convegno a cui chiameremo a confronto anche su un documento preparatorio, tutte quelle realtà, gruppi, collettivi, singoli, singole persone, associazioni, eccetera, eccetera, per discutere proprio di questo. Come è possibile in una città come Bologna organizzare una opposizione che abbia come punto di riferimento di carattere generale la possibilità di costruire un'alternativa a questo tipo di società, a questo tipo di mondo, nel concreto, in generale, e nel concreto anche della situazione di Bologna. Quindi io adesso passo la parola all'assessore Vitali. Ma io intanto ringrazio Democrazia Proletaria per aver organizzato questo dibattito e per dare quindi la possibilità di una discussione in questa sede sui temi che abbiamo sollevato nel documento economico della Giunta. Ma i termini privatizzazione e svendita sono sicuramente termini ad effetto, però non coincidono, non raffigurano la proposta che noi abbiamo avanzato. Sì, qualche vendita, non svendita, c'è, ma riguarda funzioni pubbliche che noi riteniamo esaurite, come quella della gestione delle farmacie e della gestione del macello. Qualche ipotesi di diverso rapporto tra pubblico e privato c'è, ma quello che c'è soprattutto, io credo, sia un'idea non statalista dello sviluppo dell'intervento pubblico, di una sburocratizzazione dell'intervento comunale, di un nuovo rapporto, diverso rapporto, tra ciò che è il pubblico, ciò che rende in termini di servizi, e anche le forme di autogestione, di auto-organizzazione diretta degli utenti e dei cittadini. Perché vedete, quello che credo sia da superare è un'idea secondo la quale la sinistra, per difendersi, com'è doveroso, dagli attacchi conservatori nei confronti dello Stato sociale, deve sempre e comunque difendere tutto così com'è, anche quando vi è una critica che viene dai cittadini, che si rivolge contro dei malfunzionamenti della pubblica amministrazione, perché questa critica, se non viene raccolta a sinistra e se non viene tradotta in un'iniziativa di rinnovamento e di trasformazione del modo di funzionare della macchina pubblica, beh, allora davvero può diventare una pericolosa saldatura con posizioni di tipo conservatore, con posizioni di tipo neoliberista, e può portare a quella forma strisciante di smantellamento delle conquiste sociali che noi abbiamo registrato nel nostro Paese negli ultimi 10 anni. Fondamentalmente le finanziarie che i vari governi hanno approvato di anno in anno in questi anni, progressivamente, ma inesorabilmente, hanno ad esempio compresso la finanza degli enti locali, quindi per quanto ci riguarda la finanza destinata all'unica vera e diffusa articolazione di Stato sociale che vi sia in Italia, che è quella delle nostre regioni, così come hanno assistito ad altri attacchi nei confronti, per l'appunto, dello Stato sociale. Quindi in sostanza il discorso nostro è questo. Niente affatto una conversione al privato, una tardiva e ridicola scoperta dei valori del mercato, ma puramente semplicemente il tentativo di reagire a questa situazione di strangolamento, di svuotamento degli enti locali, di farlo ponendo sul tappeto, nella maniera più netta e più forte possibile, la volontà di rilanciare e di rafforzare l'intervento pubblico, intanto sulle funzioni fondamentali del governo delle città. Perché, cari compagni, ciò che è successo in questi anni è stato anche un accentramento forte dei poteri verso il centro, manifestato dal fatto che mentre si comprimeva la finanza ordinaria degli enti locali, per qualunque esigenza che fuoriesca dagli ambiti più ordinari e quotidiani, si moltiplica la legislazione di tipo speciale, che stabilisce non solo che i finanziamenti vengono dati a Roma, ma anche il modo in cui vengono dati, per cui un amministratore locale, per realizzare opere che sono pure indispensabili per la sua città, deve prendere la valigetta e bussare a qualche porta di qualche ministero romano. Questa è la verità. E allora occorre reagire, evidentemente, perché questo significa svuotamento di poteri, centralizzazione, intreccio perverso tra affarismo e politica che occorre rompere. E allora noi pensiamo che reagire a questo significhi battersi innanzitutto per riconquistare queste funzioni di pianificazione, di indirizzo, di carattere generale che in questi anni hanno voluto sottrarci. Da questo punto di vista, allora, il discorso sulle funzioni di governo e sulle funzioni di controllo, che sono la vera garanzia per i diritti dei cittadini, si intreccia anche con un riesame dei modi e delle forme attraverso le quali l'amministrazione attualmente gestisce i servizi pubblici. Perché questa è un'altra acquisizione concettuale, secondo me, molto importante. La qualità dell'intervento pubblico non si misura dal numero di pubblici dipendenti che ci sono in una determinata realtà, perché questo è un parametro, un indicatore piuttosto insufficiente. La qualità dell'intervento pubblico, io credo, si misuri in base ai risultati. E allora, per avere risultati, non da oggi peraltro, perché questa è questione che è aperta in Italia, in Europa, da molto tempo, occorre non identificare la gestione pubblica, pubblicistica, necessariamente pubblica, con il doveroso perseguimento della funzione pubblica, cioè bisogna prendere in esame attività per attività tutto ciò che l'amministrazione pubblica svolge o deve svolgere e vedere, a seconda del tipo di attività, qual è la forma migliore di gestione. 100 anni fa, con una legislazione che io considero per quei tempi sicuramente lungimirante, si disse ai comuni che allora gestivano tutto. Allora non gestivano certi servizi perché erano fondamentalmente amministrazioni istituzionali, facevano atti amministrativi, però gestivano in proprio anche i trasporti, l'acqua, il gas. Si disse ai comuni, l'acqua e il gas, che sono servizi che hanno un carattere aziendale, anziché gestirli direttamente, costruisci, se vuoi, delle aziende speciali che chiami municipalizzate con cui li gestisci. Oggi non c'è nessuno che proponga, che si scandalizzi, primo, per l'esistenza delle municipalizzate, che pure hanno un contratto di diritto privato, pur essendo nell'ambito della sfera comunale. E in secondo luogo nessuno propone di riportare dentro ai comuni le funzioni che attualmente vengono gestite per le municipalizzate, dalle municipalizzate. Concettualmente il discorso allora è molto simile. Perché se noi facciamo un esame del tipo di attività, scopriamo che ve ne sono alcune nelle quali la gestione pubblica ha una funzione essenziale e come tale non solo questa gestione deve essere difesa, ma deve essere potenziata, sviluppata, in forme anche nuove. E i settori sono quelli dell'educazione, soprattutto per l'infanzia, 0-6 anni, dei servizi sociali e dei servizi sanitari. Qui sì che la gestione diretta da parte del pubblico ha un significato fondamentale anche di garanzia costituzionale per i cittadini che mandano i loro figli a scuola, per esempio. E quindi in questo campo si tratta semmai di individuare forme nuove, ho visto in fondo un accenno, io su questo sono d'accordo, di organizzazione dei servizi che sappiano maggiormente anche coinvolgere l'utenza e organizzarsi in modo da tener conto dei bisogni degli utenti e dei cittadini. Vi sono altre attività come le manutenzioni, la produzione pasti, le pulizie e ne potremmo citare probabilmente altre, ne dico solo alcune per fare solo qualche esempio, nelle quali probabilmente la forma di gestione diretta non è la più adatta. E anche qui è da tempo che noi abbiamo in concomitanza e forme di gestione diretta di queste attività, non sono servizi, sono attività di carattere strumentale e siamo in appalto, ad esempio col pronto intervento agli artigiani, anche qui nessuno scandalo. E quindi credo che in questi campi la gestione pubblica, non essendo la forma migliore, debba cessare e si debba andare ad una forma diversa di gestione. Noi proponiamo di costituire società miste, ma non è che lo facciamo sulla base di una teoria in base alla quale le società miste sono la miglior forma possibile, semplicemente perché abbiamo energie professionali, capacità lavorative, immobilizzate in comune in questi settori, non intendiamo mortificarle, le vogliamo valorizzare. E allora riteniamo che sia opportuno, garantendo la mobilità dei lavoratori, un passaggio dallo status di dipendenti del comune allo status di dipendenti di queste aziende, di queste imprese, con l'assoluta e totale garanzia del posto di lavoro. Vi sono poi altre attività attualmente gestite tramite le nostre aziende municipalizzate, per le quali noi diciamo l'ambiente è una grande questione strategica. Noi abbiamo due aziende dell'ambiente, l'AMIO e l'ACCOSER, unifichiamole, facciamo un'unica grande azienda per l'ambiente pubblica nella provincia di Bologna. I trasporti, certo, funzione pubblica non solo da mantenere ma da potenziare. Le farmacie e il macello. Ma io da un mese e mezzo che discuto, non sono ancora riuscito a trovare una motivazione valida per mantenere in capo al Comune queste funzioni. 20 anni fa aveva un senso che il Comune organizzasse 21 farmacie gestite direttamente, perché il privato non andava nelle zone popolari dove era necessario andasse il Comune. Oggi le farmacie ci sono in tutta Bologna, non possono essere spostate, sono un'attività redditizia, non c'è differenza tra le farmacie comunali e quelle private, tranne l'apertura di Piazza Maggiore 24 ore al giorno, ma lo si può fare benissimo, in convenzione con altre, senza gestire direttamente. Beh, io dico, se si può legislativamente farlo, non ho un dubbio alcuno, le vendiamo, le 21 farmacie comunali. Così come vendiamo il macello, sul quale peraltro la discussione è stata molto più tranquilla, perché grandi obiezioni non ve ne sono state, al fine di avere risorse disponibili per realizzare ad esempio grandi investimenti nel campo dell'ambiente. E se io voglio fare sul serio in questa città per quanto riguarda l'ambiente, ho bisogno di disinquinare le acque, di pulire le aree, di fare un grande impianto di incenerimento, e non è che possa aspettare solo le risorse che vengono da Roma, devo agire per ricavare anche risorse mie. Ecco, questo è il discorso che è stato fatto. Ancora 2 minuti le vorrei dedicare a 2 altri aspetti. Il primo è che noi ora non abbiamo più solo il documento di indirizzo della Giunta di settembre, abbiamo anche un atto concreto. Abbiamo presentato in completa controcorrente con la incertezza finanziaria dei comuni in Consiglio Comunale ieri il bilancio. E questo bilancio ci pare che parli chiaro, perché è un bilancio che finalizza risorse che vengono reperite all'interno dell'amministrazione comunale anche attraverso un contenimento in alcuni settori in direzione dello sviluppo dell'intervento sociale del comune, perché noi parliamo di raddoppiare l'assistenza domiciliare agli anziani, che nella nostra città purtroppo è insufficiente, parliamo di finanziare un progetto immigrazione per i lavoratori extracomunitari, vogliamo impiegare 1 miliardo nel 1990 per questi lavoratori, vogliamo impiegare risorse per automatizzare la macchina comunale e quindi migliorare il servizio del cittadino e migliorare anche la qualità del lavoro per i dipendenti comunali. Questo è il bilancio che abbiamo presentato in Consiglio Comunale ieri. E vogliamo farlo senza aumentare in maniera indiscriminata le entrate attraverso un aumento indiscriminato della pressione tributaria sul cittadino. Perché abbiamo proposto, ad esempio, di agire sull'evasione e l'elusione dell'ICIAP. Abbiamo proposto di agire facendo pagare a tutti coloro i quali svolgono attività commerciali su suolo pubblico una tassa che esiste nella legislazione ma che il Comune di Bologna non ha mai finora applicato, che si chiama canone ricognitorio, cioè una concessione per l'esercizio di queste attività sul suolo pubblico. Cioè vogliamo agire in forme che siano selettive. Ad esempio, vogliamo agire sul nostro patrimonio commerciale. Abbiamo detto che chi, negozianti, artigiani, è in affitto dal comune, non è giusto che goda di privilegi, deve pagare come tutti gli altri affitti di mercato. E quindi bisogna cominciare ad adeguare questi affitti, non svendendo, ma facendo fruttare il patrimonio pubblico. Perché proprio nel momento in cui le grandi concentrazioni private si gettano a capofitto sugli immobili del centro storico, noi pensiamo che il comune debba, attraverso uno strumento societario, perché i suoi uffici non sono in grado di farlo, diventare non solo un buon amministratore del suo patrimonio, ma anche, insieme alle opere pie, organizzare una concentrazione patrimoniale tale da condizionare il mercato e quindi intervenire anche sulla casa in affitto. Perché qui nel documento di Democrazia Proletaria si parla della finanziaria casa. Di finanziaria casa ne abbiamo parlato anche noi per tanti anni. Purtroppo la situazione è quella che è. Nella nostra città, così come in tutte le altre grandi città, non esiste il mercato della casa in affitto. Noi pensiamo che il comune, proprio attraverso questo strumento, potrebbe essere questo lo strumento, l'agenzia casa, l'immobiliare, dovrebbe intervenire in questo campo. Attraverso tassi agevolati, ad esempio, a proprietari di case per la ristrutturazione nel centro storico, attraverso l'incentivo dell'esperienza a cui pure Democrazia Proletaria ha contribuito, quella ad esempio dell'autocostruzione, per mettere sul mercato delle case in affitto e per creare un mercato dell'affitto, se necessario, a canone convenzionato. Queste sono le esigenze reali della città oggi. E questi sono gli impegni su cui noi intendiamo e vogliamo lavorare. Ecco, l'ultima cosa la vorrei dire sul tema del rapporto di lavoro e in generale del lavoro. Perché vedete, io non sono convinto di quello che pure voi scrivete nel volantone, e cioè del fatto che la proposta di andare ad una unificazione del rapporto di lavoro nel pubblico e nel privato tende ad essere penalizzante, almeno così mi pare di aver capito, per le garanzie dei lavoratori pubblici. Se il lavoro pubblico non è un privilegio, ma è un diritto, e allora bisogna che vi siano uguali diritti nel pubblico e nel privato. Perché io francamente non capisco più perché deve avere più diritti il dipendente pubblico di quanti ne abbia l'operaio della piccola o della piccolissima impresa o il lavoratore della Fiat. Noi siamo per pari diritti ovunque. E ovviamente siamo perché, almeno questa è la mia idea, e ovviamente siamo perché anche nel pubblico vi sia la possibilità di misurare il lavoro, di valorizzarlo e soprattutto di responsabilizzarlo. Io sono convinto che questa sia una strada obbligata e giusta anche, sulla quale le stesse organizzazioni sindacali si stanno incamminando, quella cioè della creazione di un unico diritto del lavoro, anche perché, cari compagni, se voi pensate che attraverso la difesa di un sistema arcaico e paralizzante come quello che la Democrazia Cristiana ha costruito in Italia attraverso il pubblico impiego si garantiscano meglio i diritti dei lavoratori, secondo me sbagliate di grosso. Questa almeno è la mia opinione. È la mia opinione, perché il pubblico impiego è il luogo della deresponsabilizzazione più assoluta, il luogo nel quale non è possibile fare funzionare le cose, anche, certo, per responsabilità delle amministrazioni. Io non mi voglio tirare fuori da questo, ma attraverso un meccanismo che è totalmente perverso, attraverso il quale le stesse organizzazioni sindacali vengono portate, anziché a difendere legittimamente gli interessi conflittuali dei lavoratori nei confronti delle controparti, ad essere dei cogestori subalterni di momenti gestionali. Poi ne possiamo discutere, ma io credo che questa sia la realtà. E allora, contro questa realtà, credo una forza di sinistra, o le forze della sinistra, devono battersi, anche perché qualità del lavoro e qualità del prodotto sono fra loro strettamente connesse. Per avere un buon servizio pubblico è necessario che vi sia una buona qualità del lavoro per il lavoratore, così come io credo sia necessario anche incentivare tutte quelle forme di lavoro che stanno tra il pubblico e il privato, che si chiamano lavoro sociale, lavoro autogestito, lavoro cooperativo. In questa direzione credo occorra andare, se vogliamo interpretare in maniera moderna, in un momento in cui il mondo sta cambiando così rapidamente sotto i nostri occhi, quella che pure è, almeno credo, almeno una delle funzioni fondamentali della sinistra, cioè sviluppare e qualificare le funzioni pubbliche, questo è il fine fondamentale, attraverso modalità che possono essere scelte di volta in volta nella maniera più opportuna. Ringraziamo l'assessore Vitali, adesso do la parola a Boghetta. Ma mi sembra evidente che bisogna dare atto all'assessore Vitali e all'amministrazione comunale, alla giunta comunale, che in un periodo come questo, a livello nazionale, dove normalmente si vola basso sotto le caviglie, tutto sommato c'è uno sforzo di fare una proposta che abbia un senso complessivo, che abbia alle spalle un ragionamento complessivo, che abbia un'idea generale su dove si vuole andare a parlare. E questo va detto che di per sé non è poco, visto le logiche di bottega che sono la stragrande maggioranza delle interessi della, in particolare dei partiti di governo. Detto questo, credo anche che devo dire in inizio di intervento che il nostro approccio a questo tipo di problema non vuole essere un approccio di tipo ideologico o di tipo di principio, anche se è evidente che su una serie di questioni, su una serie di affermazioni e su una serie di ragionamenti ci sono delle questioni ideologiche di fondo che non possono essere sottaciute. Qual è il ragionamento della giunta comunale? In questi anni, in particolare negli ultimi 10 anni, c'è stata una continua, costante riduzione di trasferimenti statali agli enti locali. Ovviamente sappiamo qual è il motivo, almeno qual è il motivo dichiarato. C'è un deficit dello Stato che diventa sempre più grande, quindi occorre fare politiche di sacrifici. Una volta qualcuno aveva il coraggio di dirlo, adesso non lo dice più nessuno, comunque la sostanza è questa. Quindi occorre trovare coloro e le istituzioni e dietro le istituzioni i cittadini che devono pagare questo deficit dello Stato. Sappiamo benissimo come e qual è la causa del deficit dello Stato, cioè che per il 70% sono i lavoratori a pagare le tasse e l'altro 30% sono coloro che buona grazia decidono di pagare qualche cosa. Poi abbiamo visto come funzionano i condoni, non gli basta neanche il condono per pagare le tasse. Questa riduzione costante dei trasferimenti agli enti locali, ma non si parla ovviamente solo di questo, comporta la creazione all'interno degli enti locali di nodi che in qualche maniera vanno sciolti, perché altrimenti questa situazione crea di fatto un livello di ingovernabilità. Questo riguarda sia la questione dei trasferimenti, sia un'altra serie di questioni che sono a queste collegate, le politiche per esempio del personale che sono state fatte dalle finanziarie, le politiche tariffarie che sono all'interno delle finanziarie. Nella sostanza Comune di Bologna, l'amministrazione comunale dice, vista questa tendenza e in qualche maniera prendendone atto, non certamente con soddisfazione, è evidente, occorre dare una risposta. E da qui la risposta è quella appunto di una trasformazione di un cambiamento del ruolo degli enti locali in parte e del modo di organizzarsi degli enti locali. Quindi discorso meno gestione diretta di una serie di attività e dall'altra parte più controllo e più programmazione. Ci sono anche altri ragionamenti che in alcuni casi vengono fatti esplicitamente, in altri casi invece sono impliciti, che tutto sommato l'ente locale o il pubblico funziona o non funziona, comunque non funziona sempre bene, e invece noi possiamo trovare in un rapporto col privato quella possibilità di funzionamento migliore, quindi di una risposta migliore ai bisogni della gente. Se questo è il ragionamento, io credo che occorre anche dire come noi riteniamo di affrontare il giudizio rispetto al progetto che è stato presentato. Io credo che uno dei giudizi per valutare questo progetto, la bontà o meno, poi è chiaro che un progetto così complessivo ha una serie di aspetti che possono essere considerati anche da noi, poi vedremo positivi, altri invece che non condividiamo affatto, però io credo che uno dei concetti per valutare questo progetto sia quello di cercare di capire chi ci guadagna e chi ci perde. È banale, però è l'eterna legge che regola le società, soprattutto quelle le società capitaliste. Quando dico chi ci guadagna e chi ci perde, non intendo solo dire e fare un discorso rispetto agli interessi materiali, faccio un discorso molto più ampio, cioè quali sono le classi sociali che ci guadagnano e che ci perdono in termini materiali, ma anche in termini di potere, cioè quali classi sociali vengono attivizzate da questo tipo di proposte, quali classi sociali invece vengono passivizzate, quali sono le classi che diventano maggiormente protagoniste, quali invece le classi che vengono in qualche maniera subordinate e messe da una parte. È chiaro che in questo c'è anche una scelta ideologica, no? Per noi siamo intendiamo essere un partito classista e quindi affrontiamo la questione da questo punto di vista, è una scelta unilaterale che facciamo. Detto questo, credo che occorra affrontare un'altra questione, entrando nel merito degli interessi e delle modifiche. Se oggi l'ente locale deve avere, poi vediamo come può averlo, deve avere un ruolo di ridistributore del reddito, o anche in subordine e implicitamente anche di potere. Se questa deve essere una funzione forte dell'ente locale di sinistra, o se invece è una questione secondaria. Allora noi riteniamo che la ridistribuzione del reddito, il ruolo dell'ente locale in questo senso, debba essere un pezzo forte dell'attività di una municipalità di sinistra. Perché? Perché le cose stanno come tutti sappiamo. Da una parte i lavoratori pagano le tasse, dall'altra parte pagano gli aumenti tariffari che devono compensare quello che non pagano gli evasori, poi pagano il fatto che i servizi in queste condizioni stentano a sopravvivere e certamente hanno difficoltà a qualificarsi e ad andare avanti, quindi abbiamo una serie di conseguenze negative su certe classi molto pesanti che noi riteniamo invece debbono essere contrastati e quindi l'ente locale deve avere un ruolo importante in questa questione. Io vorrei soffermarmi un altro momento sulla questione fiscale, perché nonostante tutto, nonostante se ne parli in maniera generica, però io credo l'impressione che non siamo e non abbiamo fino in fondo la cognizione di quello che significa oggi in Italia la questione fiscale. Cioè il fatto che ci sono delle classi che pagano fino all'ultimo centesimo e pagano anche più volte e ci sono delle classi che invece non pagano assolutamente niente se non quella miseria che decidono comunque di concedere grazie a loro. Perché questo pone, noi non siamo certamente gli strenui difensori di questa Costituzione, però questa è, pone una questione radicale per quanto riguarda la situazione italiana. Cioè il fatto che ci sono delle classi, dei ceti che non pagano e altri che pagano, mettono in dubbio il fatto che in Italia questa Costituzione sia in qualche maniera valida, che abbia tutt'oggi un senso. Cioè se esiste quel fondamento che coloro che hanno fatto questa Costituzione pensavano di patto sociale all'interno di una ipotesi di società che volevano costruire. Questo patto sociale è una delle questioni più importanti proprio per l'organizzazione di una società borghese, è certamente l'equità fiscale o il fatto che si paghi le tasse tutti, al di là di come, oggi in Italia non esiste. Cioè qui siamo in una situazione di barbarie, da un punto di vista fiscale siamo in una situazione di fascismo di fatto, di un autoritarismo che non prevede nessun tipo di modifica. Qualsiasi politica in Italia ha come limite chi paga le tasse e chi non le paga, e qualsiasi politica che si pone il cambiamento di questo assetto è una politica che in Italia viene espulsa ai margini. E questo credo che occorre tenerlo in mente quando parliamo appunto di tutto quello che comunque in qualche maniera e in tutte le forme riguarda la questione fiscale. C'è un altro modo per valutare questo progetto, ed è quello di vedere e di giudicarlo rispetto a un discorso che una volta veniva citato come qualità della vita o in questo caso qualità della vita urbana, come si vive in città. E cioè se questo progetto è adeguato rispetto alla necessità di potenziamento dei servizi e di qualificazione dei servizi, se è adeguato a un discorso di controllo dello sviluppo, in particolare di tipo urbanistico, e quindi tutta la questione ambientale e dell'assetto della città e della vivibilità della città, e l'altra questione, sempre per giudicare questo tipo di progetto, riguarda l'aspetto, diciamo, della democrazia, del controllo, della trasparenza e, come dicevo all'inizio, di chi diventa e di chi è protagonista in questa situazione. Ora, noi riteniamo che questo tipo di progetto in realtà favorisce i privati, favorisce gli imprenditori, favorisce le grosse imprese. Noi quando intendiamo privati oggi intendiamo anche le cooperative, quelle che una volta e quelle che anche oggi sono le cooperative rosse, ma non perché lo diciamo noi a questo punto, lo dicono loro che sono e agiscono come privati, quindi noi prendiamo atto che loro dicono che sono dei privati e in quanto tale, secondo me, vanno trattate sia per quanto riguarda i rapporti fra le cooperative e l'ente locale, ma anche per quanto riguarda i rapporti fra le cooperative e i lavoratori. Non, cosa di non secondaria importanza. Questo il progetto favorisce i privati perché nel discorso della privatizzazione, non solo per quanto riguarda l'alienazione di alcuni beni, tipo le farmacie o i macelli, come diceva prima Vitali, ma anche e soprattutto rispetto alla questione delle società miste o le questioni degli appalti, di lavori che oggi sono appannaggio del pubblico che si intende o già si sta praticando in realtà dare ai privati. Nella sostanza si favorisce, si in qualche maniera finanzia questa serie di cooperative, questa serie di imprese, quelle soprattutto grosse, poi facciamo l'elenco, sono praticamente poi sempre quelle, che trovano ulteriori occasioni di lavoro, di finanziamento e che di fatto poi oggi entrano in un meccanismo che è quello che garantisce ancora di più queste aziende che sono appunto anche le società private, come vedremo poi, ma anche la questione degli appalti. C'è un altro aspetto che noi intendiamo criticare, ed è il fatto che il Comune di Bologna continua, anche se oggi su certi aspetti ci sono delle modifiche, ma sono molto parziali e secondarie, continua ad avere come linea politica quella di intervenire a favore dei privati, inteso come sviluppo della città rispetto a delle opzioni o a una vocazione che sembra che questa città abbia di tipo terziario, di tipo commerciale. Quindi vuol dire finanziamenti, vuol dire infrastrutture e quant'altro. Rispetto a una situazione che vede Bologna come provincia, fra la più ricca d'Italia, almeno dall'ultimo sondaggio del mondo, e che siccome io penso che nessuno di noi ultimamente si è arricchito più di tanto, se Bologna è diventata più ricca vuol dire che qualcuno si è arricchito anche per noi, e che quindi probabilmente nel frattempo ha così capitalizzato e aumentato i profitti che una serie di servizi, di necessità, secondo noi deleteri in prospettiva. Qui si ragiona sempre ormai, giustamente, perché ormai questa è la linea, in termini europei, ecco, una città che si sviluppa in questo senso ha dei risvolti negativi, l'aumento delle rendite per esempio, l'aumento dei prezzi e anche aspetti di tipo negativi di tipo ambientale. Questo io credo che vada tenuto in conto, però questa è in parte è la linea del Comune, anche se poi su altre questioni tipo l'ambiente si fanno si avanzano proposte. Riguardo invece la questione dei servizi, io credo che ci sia da una parte uno sforzo dichiarato e non solo, di in qualche maniera mantenerli, in alcuni casi come quelli degli anziani, di anche potenziali, poi con caratteristiche che vedremo, però quello che noi riteniamo all'interno di questo discorso di privatizzazione da una parte, di razionalizzazione dall'altra, dove razionalizzazione ha due aspetti la razionalizzazione. Da una parte c'è una lotta agli sprechi, e questo è un discorso giusto, che va fatto, sacrosanto. C'è un discorso di razionalizzazione che significa in realtà solo contenimento dei costi, e in parte una parte di questi costi poi sono il costo di personale. Questo invece ha degli effetti negativi sui servizi, perché invece di andare verso quella elasticizzazione, invece di andare verso quelle richieste di io direi anche di personalizzazione in questi casi, ma di elasticizzazione dei servizi, questa politica di razionalizzazione, di standardizzazione, pensiamo ai privati, i privati hanno certamente questo tipo di obiettivo, proprio perché il loro fine è il profitto, non è certamente la qualità del servizio, e quindi abbiamo già anche esperienze in altri, soprattutto per esempio a livello americano, dove nei servizi per esempio l'intervento privato comporta una qualità del prodotto assolutamente burocratizzato e standard, no? Che va contro le sensibilità che oggi stanno crescendo nella nostra società. D'altra parte vediamo come poi questo tipo per esempio di compressione rispetto a, per esempio alla questione costo del lavoro ha effetti pesantissimi quando intervengono proprio le imprese private. Voglio fare l'esempio della Manutencoop e delle pulizie appaltate da pochissimo tempo all'ospedale Sant'Orsola. Ci sono delle persone che saltano in riposo, ci sono dei part-time che fanno una quantità di ore al di fuori della legge, creando anche delle situazioni buffe, perché la maggioranza di queste persone sono donne, dicono di lavorare la domenica, poi arriva la busta a casa, siccome non possono scrivere tutto quello che fanno, scrivono delle altre cose, i mariti sono andati alla Manutencoop chiedendo informazioni su cosa fanno le loro mogli la domenica, ma questo è un aspetto, una conseguenza particolare di questa vicenda. E questa è una cosa recente che sta capitando adesso, in questi giorni, non è quello che succederà in futuro o quello che è già successo, è un appalto nato da poco tempo. Ci sono altri aspetti che, a mio modo di vedere, vanno affrontati, e riguarda il discorso della trasparenza. Adesso, voi fortunatamente non frequentate spesso il Consiglio Comunale, anche se qualcuno ultimamente ci viene spesso dall'altra parte del pubblico, ma in questi ultimi anni si è parlato molto del problema della trasparenza. Questa costituzione di società miste, di appalti che diventano quasi appalti fissi, questo monopolio che si determina in alcuni settori, contribuisce alla trasparenza o invece non ha un effetto contrario? Aumenta la capacità di controllo del pubblico e anche dei cittadini o invece non ha l'effetto contrario? Ecco, noi riteniamo che questo sia uno degli aspetti più deleteri della proposta, e ci spieghiamo con alcuni esempi. E poi anche effetti negativi sulla questione dei costi. L'anno scorso, se non ricordo male, è stata creata la società di ospedaliera, quella che lava gli indumenti e le lenzuola negli ospedali. È una società che vede un 51% del Comune di Bologna e un 49% di un privato, la Fleur. Allora, questa Fleur è una impresa che agisce in termini concorrenziali, che agisce sul mercato in confronto con altre, o invece non detiene in questo caso un livello di monopolio? È evidente che la Fleur nel settore della pulizia degli ospedali di Bologna ha un livello di monopolio che non può essere scalzato, non si confronta con nessun altro, ammesso che oggi sia possibile confrontarsi, che il mercato sia un libero mercato. Questo comporta una rigidità in questo caso e la crescita di una rendita di posizione da parte della Fleur. Un altro caso, l'appalto di cui parlavo prima, a Sant'Orsola, è un appalto che rientra in qualche maniera in una logica, anche questa, di tipo concorrenziale, di mercato, o invece non ha un'altra logica? Allora, quando non si crea il monopolio come quello della Fleur, nel senso che il Comune sceglie una ditta con la quale fare una società mista, cosa succede? Che le ditte si consorziano, creano un pool di ditte che ha una potenza tale, tra l'altro quasi sempre tutte locali, che anche questo per un'altra via determina una situazione di monopolio. Infatti l'appalto al Sant'Orso chi l'ha vinto? La Mutencoop di area comunista socialista, la Gamba che è privata più o meno schierata e l'Operosa democristiana. Come potete ben capire, è una posizione di forza di non poco conto. L'estensione, così come è contenuta nel progetto del monocolore comunista in comune, di queste forme al problema della casa e a quant'altro, non fa altro che moltiplicare questo tipo di situazioni. Allora, qual è l'effetto, il prevedibile effetto? Noi speriamo poi anche di no, ma rispetto per esempio alla questione controllo, democrazia, ruolo delle istituzioni. Allora, noi non abbiamo mai creduto che gli enti locali, ma nemmeno il Parlamento, siano il posto dove si decidono le cose, però questo ruolo l'hanno avuto. A Bologna l'ente locale ha avuto un ruolo decisionale. Noi crediamo che però nella proliferazione di queste forme in realtà il potere si sposta sempre più lontano dalla istituzione elettiva, anche al di là dei partiti. Sempre più i privati detengono, secondo noi, il potere reale, si creano comitati d'affari che di fatto poi creano dei centri, quelli veri, quelli che contano, che sono non sono sottoposti a nessun tipo di controllo. Diceva un lobbista americano che i lobbisti sono come la pellicola della macchina fotografica, gli piace il posto buio, altrimenti si impressionano. Infatti è il motivo per cui la massoneria è molto incavolata, perché va benissimo finché è molto buia, quando viene messa in piazza finisce una delle caratteristiche centrali di questa lobby e di questa organizzazione lobbistica. Ecco, questo dicevo è un aspetto importante, l'altro aspetto è il controllo. Allora, io credo che da una parte non si possa dimenticare come una delle questioni che sono state messe più in discussione in questi anni sia la programmazione e il controllo. Noi abbiamo parlato di deregulation. La deregulation, quella dichiarata, o comunque è andata avanti. E oggi bisognerebbe capire che cosa metterebbe in moto un discorso diverso rispetto alla capacità, la possibilità di un controllo su certe attività. Ma c'è un'altra questione. Proprio in queste forme ibride che vanno proliferando, chi controlla è anche chi si dovrebbe controllare. Controllato e controllore in molti casi sono la stessa persona, perché il controllore è da una parte e il controllato è dall'altra parte, però è sempre. In queste condizioni io credo che sia abbastanza difficile svolgere un'operazione vera di controllo, perché voi mi insegnate che nessuno è così schizofrenico da fare nello stesso tempo il carabiniere e il ladro. Adesso non voglio fare i paragoni, solo per capirci, non era nessun tipo di illazione. Però io credo che se noi inseriamo questo tipo di problema all'interno dell'evoluzione della società italiana, il problema delle riforme istituzionali, il discorso del neoautoritarismo e quant'altro, il fatto che noi nel 92 ci sarà questo momento fatidico in cui si entrerà nell'Europa, e questo comporterà, ma già sta comportando, un indurimento delle politiche nazionali, quindi una centralizzazione, quella centralizzazione di cui parlava appunto prima Vitali, ecco allora che comprendiamo secondo me come questa proposta va in qualche maniera nel senso di una direzione storica che noi non condividiamo. Non per polemica, visto che ultimamente il Partito Comunista ha preso in mezzo anche Bobbio, però in un'intervista recentemente Bobbio diceva che era abbastanza preoccupato, per il resto molto onestamente dicendo che non aveva le soluzioni, di questo intreccio sempre più evidente, sempre più importante, sempre più devastante fra la politica e gli affari, fra una politica che viene comprata, che viene venduta e che, diceva appunto lui molto onestamente, di cui non aveva la soluzione, ed era però per questo la questione principale da un punto di vista diciamo democratico borghese per quanto riguarda il capitalismo. Il ragionamento della Giunta ha anche altri aspetti, alcuni impliciti, alcuni espliciti. La questione del pubblico inefficiente. Ecco, su questo occorrerebbe spendere alcune parole. È vero che ci sono si creano delle condizioni per cui il pubblico è inefficiente, però nella stragrande maggioranza dei casi il pubblico è inefficiente quando e laddove le autorità, gli amministratori non fanno delle scelte politiche all'altezza, quando non si spendono in termini sociali. Io credo che il Comune di Bologna, soprattutto per il passato, sia proprio la dimostrazione di questo, cioè che quando l'ente locale, l'amministrazione fa delle scelte importanti culturalmente, socialmente, il pubblico funziona. Non solo, ma funzionano anche i lavoratori, perché sono convinti, hanno coscienza di lavorare per qualcosa che va al di là del 27 e che ha anche dei risvolti di tipo sociale. E il problema che ci siamo trovati di fronte in questi anni all'interno dell'ente locale, io parlo molto con i lavoratori dell'ente locale, almeno quello quando mi capita, è proprio questo tipo di disorientamento, cioè di non trovare da parte dell'amministrazione un orientamento così chiaro nel lavoro che poi permetta a uno di, in qualche maniera, di identificarsi e di passare quelle 6 ore a lavorare con un minimo qualità del lavoro e anche un minimo di senso alla propria vita. Non è nemmeno vero, ritengo, il fatto che non viene detto che il pubblico costa di più, perché qui i raffronti possono essere anche difficili da fare. Faccio l'esempio per esempio delle manutenzioni strade, cosa che nessuno nota più di tanto, però le strade ci sono, vanno sempre mantenute. Una volta esisteva all'interno del Comune di Bologna un intervento continuo, per esempio, rispetto a questo fatto. Esistevano delle professionalità che ormai si sono anche perse e che consentivano di salvaguardare costantemente la situazione, per esempio, delle strade. Il ritiro, l'arretramento su queste attività cosa comporta? Che si interviene a volte in ritardo con delle spese assolutamente enormi rispetto al fatto che invece un intervento continuo in certi settori comportavano invece dei risparmi. Questo è un esempio che può essere in qualche maniera anche esteso. Diceva Vitali che il Comune di Bologna sta praticando questa linea. Dicevo prima, gli va dato atto della forza con cui le sta portando avanti e che ha già anticipato con il bilancio presentato ieri sera questo tipo di orientamento. Cioè, va detto che tutta la partita, privatizzazioni, società miste e quant'altro, è in qualche maniera ancora qualcosa che probabilmente avrà una realizzazione nel prossimo mandato. Però li vediamo come anche all'interno del bilancio 90 presentato ieri sera ci sono alcuni problemi che dico sinteticamente perché altrimenti mi dilungo troppo. Per capire poi anche su che cosa noi siamo d'accordo e su che cosa invece non siamo assolutamente d'accordo. Ecco, noi riteniamo che sul fronte delle entrate ci sia una manovra insufficiente. Ci sono cose che noi condividiamo, cose che secondo noi potrebbero essere fatte e non vengono fatte, altre che vengono fatte in maniera tiepida. La cosa che viene fatta in maniera tiepida è per esempio questo ricavo riguardo alla questione dei negozi. Noi, come il Comune di Bologna, ha circa 550 attività commerciali in affitto. Noi l'anno scorso denunciamo il fatto, facciamo una piccola inchiesta, che non solo questi signori pagavano degli affitti veramente ridicoli e fra l'altro creando anche delle disparità notevoli con gli altri commercianti di fianco, perché un negozio in via Indipendenza, in via Galvani, in piazza, in via D'Azeglio ha un affitto che va dai, al massimo 10 milioni, alcuni arrivano fino a 20, teniamo conto che normalmente siamo a 3 o 4 volte in realtà questo tipo di per i privati di spesa. Ma abbiamo scoperto che tutti questi signori erano anche evasori fiscali. Faccio l'esempio, per non fare nomi, di Camisa, via Indipendenza 44, pagava al comune allora circa nell'84 circa 3 milioni di affitto. Per una legge questo canone è stato ultimamente ritoccato in 7 milioni e mezzo. La signora Camisa dichiarava 6 milioni e 500 mila lire all'anno di reddito. Poi voi, se volete, andate a vedere i prezzi e vi rendete conto della disparità. Se poi sotto l'archiginnasio, via Galvani 1F, c'è una valigeria, stesso discorso per quanto riguarda il reddito, sì, per quanto riguarda l'affitto che paga e quant'altro. Ecco, io credo che la proposta del Comune di ricavare dei soldi, noi siamo convinti, lo dicemmo già allora, che era una vergogna, però su questo secondo me bisogna andare a ricavare molto, ma molto di più, perché è giusto. E questa è una delle cose che rispetto alla proposta del Comune ci trova concordi e noi appunto l'avevamo sollevata e di questo siamo anche contenti che venga affrontato. Ecco, non riteniamo che sia completato il discorso dell'aumento delle entrate. Alcune cose sono lasciate fuori e non si capisce perché. Faccio l'esempio dello stadio, da due versanti. C'è una convenzione col Bologna Football Club, per cui il Bologna Football Club credo non paghi più di 300 milioni all'anno al Comune di Bologna. Comunque c'è una caratteristica, c'è una modalità, il 2% per alcuni anni, perché in questi anni con la ristrutturazione ci hanno perso un po', per cui 2%, poi dopo dal 92 si passerà al 6%. Comunque l'entità dell'entrata per il Comune di Bologna è assolutamente ridicola, se pensiamo agli stipendi di calciatori. Un calciatore, uno solo, prende quanto il Comune di Bologna in un anno. Ma non solo. Il Comune di Bologna ha speso dalle 20 ai 24 miliardi per la ristrutturazione dei mondiali e non ha pensato, forse adesso ci sta ragionando, ma nel bilancio vitale non ce l'ha ancora messo, forse non si è consultato con Pizzirani, intendeva dare a Montezemolo, organizzatore dei Mondiali 90, lo stadio gratuitamente, dopo aver speso 20 miliardi per la ristrutturazione. Ora credo che questo abbia dei margini di entrate per il Comune di Bologna, secondo noi, abbastanza grossi. Ma c'è un altro discorso. Il Comune di Bologna, visto che ormai lo stadio non è più un monumento nazionale, lo dice sempre il consigliere Missino, che si è incazzato perché gli hanno rovinato, visto che non è più un monumento nazionale, che senso ha, che ruolo ha il Comune, per esempio, nello stadio o anche nel palasport? Il Comune di Bologna ha un senso mentre quando interviene per favorire l'attività sportiva di base, non ha un senso quando interviene riguardo allo sport spettacolo. Poi io sono uno sportivo, però quello è uno sport spettacolo demenziale ormai, inutile che ci facciamo i giri sulla violenza negli stadi. È così enfatizzato il calcio che la violenza è normale, e stupirebbe che non ci fosse. Questo non è che non voglio colpevolizzare il Comune di Bologna, anche se il sindaco ci interviene un po' troppo pesantemente sul calcio. Comunque rimaniamo ai problemi amministrativi. Secondo noi, per esempio, l'alienazione dello stadio è un fatto positivo. Noi siamo d'accordo a privatizzare lo stadio, se lo compri il Bologna Football Club. Perché a noi, come collettività, lo stadio ci costa soltanto. E gli esempi possono continuare. E su questo io credo che ci possono essere degli aspetti positivi. Poi gli esempi possono essere tanti di questioni da potenziare, la questione della fissione, non vado nel merito perché altrimenti sono già stato lunghissimo. Non ci convince nella manovra per il 90 la mancanza di una politica riguardo la questione degli sprechi. Cioè, il Comune di Bologna in questi anni ha realizzato delle cose che oggi pesano soprattutto sui mutui, e i mutui sono una parte importante del bilancio, circa il 20%, che sono degli sprechi incredibili. Parlavo prima della questione dello stadio, ma poi gli esempi possono essere tanti, la casa del Nettuno, il modo come si ristruttura l'Arena del Sole che ormai costa 30 miliardi e via andare. La parte lotta agli sprechi è una parte secondo noi importante perché libera risorse per gli interventi sociali, non costringendo quindi il Comune né una politica, a certe politiche di compressione né a certe politiche tariffarie. Poi rispetto agli interventi ovviamente ci sono cose che non ci convincono affatto, il blocco del turnover nel momento in cui non si è fatta nemmeno la privatizzazione, ha senso bloccare il turnover anche ai livelli bassi, però nel momento in cui tu fai la privatizzazione, cioè quando non hai più quel servizio. Il blocco del turnover, a parte la questione leggi nazionali, comporta per una serie di settori sofferenze per gli utenti, per i lavoratori, per il servizio stesso. No, questo, al nostro modo di vedere, non ci convince più di tanto, tanto più che non si dice che quei settori che continuamente vengono scoperti verranno poi appaltati. Si sa solo che alle Aldini la Manutencoop è andata a misurare i pavimenti. cosa interessa misurare i pavimenti, è ovvio, però questo è una cosa che non viene, che non viene, che non viene detta. Ma io credo poi, visto che già ci sono molti interventi, alcune altre cose nel merito verranno dette magari dai, appunto dai diretti interessati, quindi volevo chiudere questo discorso. Io credo che questa scelta, così come altre che il Partito Comunista sta facendo ultimamente, dà un taglio con buona parte del passato, in particolare in questo caso con il municipalismo rosso, con il municipalismo conflittuale con il governo, con il municipalismo progettuale e alternativo anche, seppur in maniera riformista, alle tendenze dominanti. C'è una scelta che secondo noi non ricorre, come in passato si faceva, alla mobilitazione popolare per risolvere i problemi politici e i problemi economici, questo è un fatto grave. Il Partito Comunista nella sua proposta cerca di pararsi un pochettino sul fronte sinistro facendo il discorso sulla sinistra diffusa, che non so se questo è il senso dell'intervento di Vitali quando diceva si favorisce l'auto-organizzazione. Qui l'unica auto-organizzazione che si favorisce sono alcune cooperative culturali, non più di tanto, perché anche il discorso sull'autocostruzione, Vitali, sono due anni che è lì bloccato, ci sono tre stabili già previsti, però sono lì che continuano a cadere senza intervento alcuno. Ecco, se questo è secondo noi il senso di questa proposta, noi crediamo appunto che occorre sviluppare un discorso antagonista a livello di città, occorre sviluppare un discorso che non fa e non si prende, questo, con questo concordo con Vitali, non prende il pubblico così com'è, si tratta a nostro modo di vedere di non solo di potenziare i servizi pubblici ma anche di democratizzarli attraverso evidentemente oggi una conflittualità sociale, a volte vincolando anche alcune scelte a referendum, sviluppando il ruolo degli utenti in maniera vera e non fittizia come fa secondo noi il Comune di Bologna facendo a volte delle consultazioni quando le fa, perché le consultazioni hanno sempre, anche queste sono quelle di serie A e quelle di serie B. Ci sono le consultazioni che riguardano la Confindustria, Confcommercio, queste vengono fatte bene. Quanto riguarda invece i cittadini in termini generici, questo viene fatto assolutamente male. L'ultimo esempio è quando si è deciso di aumentare le rette dei nidi. Alcuni quartieri l'hanno fatto, alcuni altri non l'hanno fatto, in ogni caso qualsiasi cosa che decidesse o dicessero i cittadini era comunque un parere consultivo. Invece io credo che se vogliamo fare un discorso veramente riguardo ai servizi, i cittadini, gli utenti dei singoli settori devono avere un potere decisionale, se no ci prendiamo in giro. Esiste un'ultima questione e chiudo rispetto alle questioni che noi riteniamo principali, che sono da un punto di vista politico e programmatico, il discorso della casa, l'autocostruzione, ma anche la finanziaria casa, che in altre città è stata sperimentata, ma che a Bologna non è stata mai sperimentata ed è stata abbandonata. Il discorso di un programma pluriennale di elettrificazione del trasporto pubblico, visto i discorsi che noi condividiamo riguardo alla questione da una parte inquinamento e dall'altra parte il fatto che comunque le città con le auto non possono più vivere, che quindi in questo senso occorre più pubblico, che occorre meno privato quando i privati sono gli imprenditori, le imprese e quant'altro, e anche più privati invece dal nostro punto di vista quando il privato significa auto-organizzazione dei cittadini, anche qui con delle specificazioni. Quando parliamo del volontariato, per esempio, noi dobbiamo dire una cosa, che il volontariato ha svolto in buona parte un ruolo di supporto e di sostituzione al pubblico. Oggi la dimensione è tale per cui in questi settori, le emergenze, gli immigrati, occorre più intervento pubblico, perché il volontariato ormai si sta trasformando in un'impresa e la trasformazione da volontariato a impresa modifica sostanzialmente qual è il senso del volontariato. E quindi dobbiamo ridefinire anche in questo senso i ruoli. L'ultima questione, telegrafica. Esiste un problema sindacale. Esiste un problema sindacale, per esempio all'interno del Comune di Bologna, perché non è possibile, al di là di qualsiasi opinione, che i lavoratori, 6.500 lavoratori del Comune di Bologna, abbiano le condizioni sindacali, cioè i sindacati che attualmente vanno per la maggiore, a volte anche per la minore, all'interno dell'ente locale. Non esiste una struttura democratica che rappresenti i lavoratori direttamente, al di là della burocrazia sindacale. Esistono i sindacati, i delegati, quando vanno bene, dei singoli, delle singole confederazioni, non esiste null'altro. Quindi si assiste a una situazione che, scusate tanto, ma ormai qui la Polonia siamo diventati noi, l'Unione Sovietica siamo diventati noi, qua esistono i sindacati brezneviani. Fortunatamente non esistono più in Russia, ma a questo punto i problemi internazionali siamo diventati veramente noi. Dunque, come avevo detto all'inizio, l'architetto Cervellati non è potuto, potuto partecipare stasera perché è rimasto bloccato con l'aereo per la nebbia, che era fuori Bologna. Ci ha spedito via telefax un suo intervento scritto in cui riassumeva le cose che voleva dire. Io ve lo leggo come contributo alla discussione, è abbastanza breve perché appunto è una sintesi, almeno posso dedurre che è una sintesi di quello che avrebbe detto stasera. Ve lo leggo. Allora, disguidi e nebbia mi impediscono di partecipare al dibattito di questa sera. Peccato perché l'argomento mi interessava molto e avrei voluto esprimere qualche opinione. Ciò che si sta manifestando era già avvenuto 50 anni fa, quando il podestà fascista riuscì a vendere una parte non piccola del patrimonio monumentale di Bologna. Anche allora si trattò di negozi e banche, e anche allora si realizzò lo sconvolgimento del demanio comunale, quale premessa all'assalto speculativo che, dopo la guerra, si manifestò nel centro storico. È noto che in tutti i paesi europei dove si realizza l'urbanistica migliore, la proprietà pubblica delle aree e dei suoli è garanzia di un assetto equilibrato e di una gestione amministrativa lungimirante. A Bologna, dopo anni di faticosa politica demaniale, si vuole vendere o svendere ciò che è stato pubblicizzato. La questione è più grave di quanto non sembri l'appartenenza al pubblico o al privato di questo o quell'immobile. È assai più grave perché la privatizzazione di Bologna si manifesta con il nuovo piano regolatore. Nei fatti, parte non piccola delle aree che negli anni 60 e 70 era stata vincolata ad attrezzature pubbliche viene, nel nuovo piano regolatore, destinata all'edilizia privata, consentendo colossali speculazioni. Faccio un esempio per tutti. In questi giorni si è parlato molto della colossale vendita immobiliare fatta dal Credito Romagnolo. Ebbene, fra gli acquirenti, una delle tante cordate, ha potuto partecipare a privatizzare una parte degli immobili grazie alla speculazione fatta in un'area esterna. Vendita di un pezzo di terra destinato prima del piano regolatore ad attrezzature pubbliche, comprato per meno di 1 miliardo nei primi anni 80 e venduto qualche mese fa per quasi 25 miliardi, dopo che il piano regolatore ha modificato il vincolo da attrezzatura pubblica a privata edilizia. Questo è... Sì, contributo molto breve, la sintesi. Ecco, io ho già diversi iscritti che nel frattempo hanno chiesto di intervenire, e quindi adesso io do la parola. Il primo iscritto è un rappresentante del Comitato di Difesa dei Lavoratori. Chi è? Tu? Me l'ha chiesto all'inizio. Penso di sì. Vedi se si accende. Allora, io parlo a nome del Comitato di Autodifesa dei Lavoratori di Bologna, che è un organismo di base di lavoratori e compagni che si occupa appunto di problemi del lavoro sul territorio. Noi abbiamo dato anche un volantino per esporre quello che pensavamo rispetto al problema delle privatizzazioni a Bologna. Qui io cerco di dare delle ulteriori indicazioni rispetto a quello che a nostro avviso dovrebbe essere sia la situazione in cui il problema privatizzazioni va inquadrato, sia anche rispetto ad alcune indicazioni su cui agire. Allora parto da una premessa che secondo me è fondamentale, cioè il problema delle privatizzazioni bolognesi va inserito a ragione in un contesto che da un lato è rappresentato da quelle che sono le dinamiche dell'economia mondiale, che come un recentissimo rapporto dell'Adam Smith Institute di Londra dimostrava, tende verso la concentrazione delle imprese da un lato e la privatizzazione di quote massicce di servizi pubblici dall'altro. Una seconda coordinata in cui inquadrare tutto questo contesto è la svolta del Partito Comunista, che ormai approdato a sponde neoliberiste ha sposato in pieno la democrazia delle società per azioni, cioè la democrazia in cui chi conta di più è chi ha più potere economico, chi è più ricco, chi ha più azioni. Da queste due coordinate, a mio avviso, nascono tanti episodi, grandi e piccoli, che hanno caratterizzato la vita economica e sociale italiana degli ultimi tempi. Dalle leggi sul diritto di sciopero al sostegno sindacale e del PC sostanzialmente alle proposte Fiat sul salario, eccetera, eccetera. Non ultima, appunto, la questione delle privatizzazioni a Bologna. Quello che andrò a dire probabilmente a qualcuno potrà sembrare ideologico, però io penso che in questo momento bisogna guardare in tempi non brevissimi, in tempi medi, e sostanzialmente sono convinto che chi predica la fine delle ideologie oggi non fa altro che portare acqua al mulino dell'imbecillità di massa. Dicevo, il problema a cui dovremmo dare una prima risposta è: le privatizzazioni a chi servono? Il documento della Giunta Comunale del 19 settembre 89, a pagina 17, lo dice sostanzialmente in modo esplicito. La politica di privatizzazione serve sostanzialmente per dare un contributo finanziario notevole alle imprese locali in vista dell'unificazione dei mercati europei del 92. Cioè, in pratica, il Comune di Bologna non ha tanto bisogno di reperire risorse da destinare ai servizi sociali. Il problema prioritario è di reperire quelle ingenti risorse da destinare alle innovazioni, al rinnovamento delle imprese e sostanzialmente alla concorrenzialità e alla competitività del sistema delle imprese. Della serie, i soldi che servono vanno a ingrossare per l'ennesima volta le tasche delle imprese private. Poco importa se siano cooperative o se siano grosse imprese industriali. Questo perché io cerco di andare in maniera abbastanza veloce, anche perché appunto penso che il tempo sia poco. Allora, perché tutto questo? Perché in pratica una politica di privatizzazioni in questo modo, e ripeto, Bologna non è estranea dal contesto nazionale e internazionale, tutt'al più fa da battistrada rispetto ad aree nazionali. La politica di privatizzazione non serve né alla cosiddetta utenza, che avrà dei servizi minori in termini di quantità, e per quanto riguarda la qualità, chi più potrà pagarsi i servizi allora li avrà, chi non potrà pagarseli avrà dei servizi al di sotto degli standard medi. Non serve ai lavoratori, perché i lavoratori vedranno privatizzato il loro rapporto di lavoro e soprattutto vedranno diminuite le garanzie, vedranno aumentata la mobilità, vedranno in nome di un fantomatico modernismo sostanzialmente aumentato il loro sfruttamento. Fra l'altro diceva l'assessore Vitali che non si capisce perché il lavoratore pubblico debba essere più tutelato del lavoratore privato. Infatti anch'io dico questo, non si capisce, però non si capisce perché il lavoratore privato non dovrebbe essere tutelato esattamente come quello pubblico, cioè perché non aumentare le garanzie del lavoratore privato anziché diminuire le garanzie del lavoratore pubblico. Questa qui mi sembra una contraddizione. Questa qui mi sembra una contraddizione grossissima rispetto a un partito che sostanzialmente vuol dirsi appartenente alla sinistra. Però forse, e continuo ancora, la privatizzazione fra l'altro serve semplicemente appunto a creare nuovi campi di investimento per quelle imprese locali e non che rispetto ai servizi sociali, rispetto ai servizi pubblici, trovano nuove possibilità di investimento, nuove possibilità di accumulazione e soprattutto nuove possibilità di far quattrini. Su tutti io invito alla lettura di un libro che è emblematico, si chiama Nella competizione globale, è fatto da consulenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Industria ed è stato curato da Battaglia e da Valcamonici, che sono uno il Ministro dell'Industria e uno lo studioso della Banca d'Italia. Ebbene, questi autori sostengono che il problema degli anni 90 e 2000 sarà quello di strutture pubbliche, Stato e enti locali, che si facciano carico da un lato di fornire risorse finanziarie alle imprese, d'altro lato di lasciare spazi liberi alle imprese per investimenti nei settori che oggi sono gestiti dallo Stato e dagli enti locali, perché in pratica soltanto il ciclo integrato di servizi di produzione e riproduzione sul territorio potrà assicurare il pieno controllo delle imprese rispetto ai loro obiettivi di produttività, di investimenti e di accumulazione. In sostanza, il segno delle privatizzazioni, nonostante il fumo che ci vogliono vendere, è quello che è stato indicato dal documento della giunta comunale, appunto in quelle righe sparse, è sostanzialmente il segno con cui Occhetto imposta il suo nuovo PC. In pratica un partito che guarda al mercato, alla democrazia del mercato, cioè alla falsa democrazia sociale, e che guarda sostanzialmente a un'alleanza con i ceti produttivi che miri da un lato a garantire al PC l'ingresso nelle stanze del potere, da un altro lato mira a chiudere definitivamente il caso italiano, affossando, grazie anche al sindacato di Stato, affossando quelli che sono gli elementari diritti dei lavoratori. D'altra parte, e chiudo questa piccola parentesi, non è stato proprio il PC a farsi fautore della legge di limitazione sul diritto di sciopero, non è stato Cavazzuti insieme a altri suoi amici del PC a presentare una legge per la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. E non vale la questione che il pubblico funziona meno del privato, il pubblico riesce a funzionare come e meglio del privato soltanto se ha le risorse per funzionare, e in realtà il PC insieme a tutte le altre forze politiche risorse al pubblico l'hanno continuamente levate, così come il sindacato ha levato continuamente forza ai lavoratori per regalare nelle mani degli industriali sostanzialmente una forza lavoro sempre più incasinata e sfruttata. Una ultimissima considerazione: che fare rispetto al problema privatizzazioni? Io credo che oggi vada costruito un fronte di opposizione reale alle privatizzazioni, che faccia pagare soprattutto al PC e al sindacato che ha firmato il protocollo d'intesa col Comune sulle privatizzazioni, che faccia pagare il prezzo politico di queste scelte antipopolari. E qui non si deve fare campagna elettorale, cioè qui si tratta semplicemente di costruire un fronte ampio di mobilitazione che parta dalla gente, che parta dai luoghi di lavoro, che parta dagli interessi reali della popolazione che richiede più servizi e non è disposta a pagare questi maggiori servizi né con maggiori spese né con maggiore sfruttamento. Per cui invito sostanzialmente i lavoratori, i compagni, le forze politiche che ci stanno a valutare attentamente questo tipo di proposta, perché soltanto attraverso la costruzione di un fronte ampio di mobilitazione possiamo riuscire da un lato a cercare di bloccare la politica delle privatizzazioni e d'altro lato a cercare di impedire che sulla pelle dei lavoratori si giochino piccole bagarre di campagna elettorale. Dunque, adesso è iscritto a parlare Paradisi. Io, siccome io ho 11 iscritti a parlare, inviterei a limitare gli interventi nell'ambito, diciamo, di non più di 10 minuti, così permettere a tutti di intervenire. Comunque, chi qualcun altro vuole iscriversi, me lo dica. Dunque, io sono un operatore sociale, ho lavorato prima nel privato, poi nella provincia e poi nel comune. E volevo intervenire proprio su questi temi. Vitali ci parla di un potenziamento dei servizi educativi, dei servizi sociali, eccetera, e della necessità che il pubblico gestisca direttamente questi servizi. Allora io vorrei cominciare raccontandovi un'esperienza di privatizzazione, semi-privatizzazione di un servizio educativo. Io lavoravo come educatrice in un gruppo appartamento per bambini dai 0 ai 6 anni in stato di abbandono. Lavoravamo ovviamente, perché ormai nel pubblico è così dappertutto, in condizioni di sottorganico e le condizioni di lavoro erano allucinanti, doppi turni, facevamo la mattina e la notte, perché il servizio doveva essere aperto, coperto 24 ore su 24, lavoravamo la domenica, Natale, Pasqua, Capodanno, eccetera, eccetera. Avevamo dei grossi problemi a programmare le nostre ferie, i permessi studi, le cure termali, ci davano le ferie d'ufficio, facevamo delle notti di 12 ore con 6-8 lattanti e un solo educatore che doveva fare anche i lavori, perché avevamo il ruolo unico, giustamente, secondo me. Questo, vabbè, tanto per ribadire e sfatare il discorso che viene oggi fatto da più parti del dipendente pubblico che non fa niente. Ecco. Di fronte alle nostre lamentele, l'amministrazione, in questo caso la provincia, ma secondo me cambia poco, ha pensato bene di coprire i buchi di un organico peraltro da potenziare, assumendo degli operatori in convenzione con le cooperative. Questi operatori non solo dovevano sopportare il nostro pesantissimo carico di lavoro, ma dovevano in più garantire una o due ore di reperibilità tutti i giorni che non gli venivano retribuite, avevano dei salari di 200-300.000 lire al mese più bassi e non avevano nessuna garanzia sul piano formativo. L'introduzione di questi operatori ha portato di fatto grossissimi problemi sul piano di gestione e di organizzazione del servizio, che ha visto mettere in discussione proprio il discorso del ruolo unico che noi con tanta fatica eravamo riusciti a mantenere. Ecco, questi secondo me sono i risultati di una gestione mista pubblico-privato e queste sono le condizioni di lavoro degli operatori sotto il privato, per cui sono d'accordo con l'intervento che c'è stato prima, che mi sembra assolutamente ingiusto mirare all'uguaglianza dei diritti dei lavoratori peggiorandone di fatto le condizioni. Ecco, poi c'è il discorso di Vitali sulla maggiore qualità del servizio che sarebbe garantita con una gestione privata. Ancora una volta la privatizzazione di un servizio educativo ci dimostra che questo è assolutamente falso. Valga per tutti l'esempio dei campi solari che sono stati dati in appalto questa estate. E se con la gestione comunale il rapporto educatori-bambini era di 1 a 20, 1 a 25, con la gestione privata il livello è salito tantissimo, pare 1 a 60, cioè un educatore con 60 bambini, con la presenza di ragazzini handicappati senza gli insegnanti d'appoggio. Ecco, un'altra cosa che vorrei precisare è relativa a questo annunciato